Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Quando sono con un po' di ritardo le 8 e 37 minuti inizia una nuova puntata di Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, naturalmente 800 24 00 24, vi aspettiamo. Carlo, Milano Monterosa. Piovigina. Però invece è meglio così, perché io mi lamento sempre, perché a me la pioggia non piace, ma in realtà, come e ne parleremo anche oggi, c'è un grossissimo problema del fatto che piove troppo poco e quindi non posso fare il solito numero dove dico purtroppo piovigina, devo dire per fortuna piovigina. Il professor Luca Mercalli sarà con noi nella seconda ora. Vince il gioco di ieri Emma da Torino, che ci ha chiamato per dirci che lei nella Doomsday Library che si sta costruendo in Norvegia per salvare in caso di apocalisse, lei metterebbe le lettere dei suoi nonni che ha ritrovato momento che di poesia. Ci ha raccontato essere delle lettere bellissime. E il gioco di oggi invece è, come sempre la domenica, la ricerca di un personaggio della settimana. Vi diamo subito il primo indizio, così cominciate a chiamarci. Allora, un personaggio di questi ultimi 7 giorni è un personaggio che ritorna. Suspense. Io mi zittisco. È difficile, posso dire che è difficile. Però se penso a questo personaggio che ritorna, lo vedo proprio che ritorna. Giusto. Lo vedo, eccetera. Quindi pensate, 800 24 0024, cominciamo la nostra cavalcata tra le notizie della settimana. Vai. Io non voglio fare l'investigatore, ma è evidente che Grillo ha una paura terribile che io diventi il segretario del Partito Democratico, perché se questa cosa avvenisse noi recupereremmo moltissimi voti da loro e loro avrebbero un atteggiamento diverso rispetto a noi. Vabbè, cominciamo così con una voce politica della settimana. Possiamo dire: Grillo, stai sereno, perché non ci sono grossissime probabilità che accada quello che dice Emiliano. Direi che siccome probabilmente andrà così, dovremmo dire: Emiliano, stai sereno, perché di solito quello che viene rasserenato è quello che è in procinto ad andarsene. Due ore di confronto e dialogo con i ragazzi, del quanto valga insieme al sapere, che è ovviamente essenziale, anche l'essere, cioè le cose che le persone fanno, il volontariato, il servizio civile, tutte le cose che si fanno. Studiare, imparare, conoscere, e vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività, vivere con gli amici. Il calcetto è, se volete, la metafora della relazione sociale. Chissà come è finito il trofeo Birra Poletti ai Giardini Margherita di Bologna, di cui abbiamo parlato ieri in onore a Poletti e alla sua affermazione sul calcetto. Va detto che però ha anche ragione quando dice che sintetizzare due ore di discussione, di chiacchierata, dicendo semplicemente la questione del calcetto, è sfortunato Poletti nelle sue affermazioni, perché effettivamente quando vengono così scorciate sono delle affermazioni piuttosto urticanti. Però il concetto che lui stava esponendo ci sta anche il fatto di dire che le relazioni sociali oggi come oggi sono molto importanti. Certo, essendo lui il ministro del lavoro, forse dovrebbe occuparsi che non siano così fondamentali, ovvero che è solamente importante con chi giochi a calcio e non che cosa studi. Ecco, ma poi è complicato anche perché, insomma, ogni mattina un voucherista si sveglia nel mercato del lavoro e sa che deve trovare un dirigente d'azienda per giocare con lui una partita a calcetto. Vallo a trovare, non è mica facile. Giusto. Stop on the rock. Stop on the rock. Stop on the rock. Stop on the rock. Can't stop the rock. Can't stop on the rock. Stop the Rock. Da Firenze invece arriva la notizia: stop ai negozi alimentari e cosiddetti di somministrazione per 3 anni. È quello il rock, no? Il rock, i panini, le pizzette, i gelati, le birrette, basta, i cocktail, finito. Tutto finito. Tutto finito, perché non so se ci avete fatto caso, ma in effetti nei centri storici delle città turistiche, ma non solo, anche Milano è una città abbastanza turistica, noi viviamo qua. Ci sono solo che bar e gelaterie che stanno aprendo. Milano è un problema diverso, Milano ha sostanzialmente un problema di negozi di vestiti, semmai, che spesso si dice: ma è possibile che in questa via c'è solamente commercio di vestiti? Ma giustamente ognuno ha il proprio problema. Sta cambiando. Ad esempio, a casa mia, nella strada di casa mia, c'era un negozio all'angolo di vestiti da donna. Io non ci sono mai entrato, una volta per fare un regalo a mia moglie, è chiuso e è aperto una gelateria. Quindi io posso confermare anche in questo caso, anche Milano si piega Milano alla somministrazione di alimentari. E allora, sei fortunatissimo che invece che un vestito hai comprato una coppetta fragole e cioccolato e te la sei cavata con 2,70 euro. Esatto, va bene. Allora andiamo a vedere però quello che accade a Firenze, perché la notizia è questa: stop per 3 anni alle nuove autorizzazioni, cioè vogliono cambiare strada a Firenze, vero assessore allo sviluppo economico Cecilia Del Re di Firenze? Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Sì, è vero, confermo, andremo in giunta con questa delibera martedì prossimo, con la quale bloccheremo nuove aperture di attività di somministrazione, di commercio, di generi alimentari e di attività artigianali, industriali, di separazione e vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare per i prossimi 3 anni all'interno dell'area UNESCO, del centro storico che è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Perché voi avete questa questione del patrimonio UNESCO, un regolamento al quale Firenze si appella anche per normare questo tipo di cose. Però ci spiega bene qual è in effetti il problema, perché uno potrebbe dire: ci sono più bar, gelateria, è una questione di libero mercato. Ognuno fa quello che gli pare. A parte che in effetti con solo ristoranti e kebabari, cioè uno va a mangiare fuori 2 volte al giorno, oppure rischiando di farsi un fegato grosso come una mongolfiera, oppure rischiano di essere inutili, esagerati questi, anche perché chiudono librerie, lo sappiamo, mercerie, vecchi negozi. Vuoi mettere il vecchio negozietto di quartiere? Quello non c'è più. Quella che si rischia è l'omologazione delle funzioni all'interno di queste aree. Noi abbiamo fatto uno studio sui dati e sono impressionanti. Dal 2012, che è l'anno in cui è intervenuta la liberalizzazione della somministrazione in quest'area, ad oggi abbiamo avuto un incremento del 78% del commercio alimentare. Del 78%? Sono quasi raddoppiati praticamente. Esatto. E poi l'altro dato impressionante riguarda la densità della presenza. Prendiamo soltanto gli esercizi di somministrazione. All'interno dell'area UNESCO abbiamo 217 esercizi di somministrazione per chilometro quadrato, fuori dall'area UNESCO abbiamo 11 esercizi di somministrazione per chilometro quadrato. Vabbè, questo è un po' pazzesco. È anche un po' di normale. Si sia di fronte appunto a 2 città però diverse. Sì. E l'area UNESCO è il 5% del nostro territorio comunale fiorentino. Sì. Nell'altro 95%, ecco, questo divieto, questo blocco non ci sarà, e quindi anche in prospettiva di politiche di infrastrutture che noi stiamo portando avanti, stiamo costruendo le linee 2 e 3 della tranvia, si svilupperanno poi nuovi centri al di fuori dell'area UNESCO. Ma mi scusi, forse è una domanda stupida, ma siccome giustamente lei sta dicendo l'area UNESCO è il 5% di Firenze e il resto è il 95%, davvero? Non si rischia semplicemente che quindi adesso avremo anche ristoranti anche nel resto del 95%, che ci sarà anche lì 217 esercizi per chilometro quadrato che migrano tutti lì? No, diciamo che gli investitori puntano a aprire queste attività soprattutto nell'area UNESCO, perché nel nostro centro storico si concentrano la gran parte dei monumenti storico-artistici. Certo. E quindi il turismo di massa massa si concentra proprio in quest'area. Abbiamo approvato il piano di gestione dell'UNESCO sulla base delle linee guida che ci ha dettato l'UNESCO e ci chiede di salvaguardare l'identità di questa zona, e l'identità, il suo volto, le sue tradizioni sono rappresentate anche da quel commercio artigianale, da dalle botteghe storiche, dagli esercizi, ecco, di vicinato, ecco, anche, ecco, a tutela della residenza. E qua la volevo però, assessore, perché? Sì, parallelamente, prego. La residenza, tra l'altro, nell'area UNESCO in questi ultimi 5 anni è diminuita. Quindi bisogna anche andare a rafforzare un altro tipo di commercio al di là, appunto, di questi esercizi, ecco, di commercio. E qua la volevamo, perché se diciamo, il fatto che ci siano più negozi di alimentari in centro, più bar, più gelaterie, può essere anche dovuto al fatto che in centro c'è più agglomerato, no? C'è accentramento, appunto. Però è sicuramente un dato che sta cambiando proprio il modo in cui il commercio è presente nelle nostre città. Però la domanda che le faccio, le chiedo di rispondere poi dopo il traffico, è: state pensando a qualche incentivo, a un modo per aiutare gli altri negozianti che vorrebbero eventualmente aprire? Perché è facile chiudere o non autorizzare un bar, una gelateria, un ristorante, però questo non è detto che apra un altro negozio, una libreria o una merceria o un altro negozio, a meno che non ci sia un aiuto, un incentivo, un sostegno da parte del comune o di qualcun altro. La domanda è questa, le chiedo di aspettare un attimo dopo il traffico e poi gli ascoltatori invece di raccontarci all'800 24 00 24 come stanno vedendo cambiare, se stanno cambiando le loro città. Tra poco. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, stop ai negozi di somministrazione alimentare per 3 anni e nuove autorizzazioni a Firenze. Siamo con l'assessore allo sviluppo del comune di Firenze, Cecilia Del Re. Io le faccio questa domanda: cosa state facendo per Giuseppe? Dice lei: chi è Giuseppe? Giuseppe era l'edicolante nella mia via, si chiamava Giuseppe. Adesso ha chiuso l'edicola, se n'è andato perché non vendeva più giornali, niente. Non, e c'è non, un kebabaro al suo posto? Niente, no, non c'è niente al momento. Però per tutte quelle attività commerciali che siano altre rispetto a bar e gelaterie che volete in qualche modo limitare, cosa sta facendo il Comune di Firenze? Ecco, nell'ultimo bilancio preventivo abbiamo già approvato delle agevolazioni IMU per librerie, esercizi storici e start-up giovanili. Oltre alle agevolazioni IMU che erano già previste nei precedenti bilanci per cinema e teatri, quindi questa è già una misura di supporto per determinate categorie economiche che soffrivano, vedi le librerie, vedi gli esercizi storici commerciali, qua ne abbiamo tante di botteghe storiche che hanno contribuito a rendere, appunto, il nostro centro storico, sì, famoso in tutto il mondo. Sì, mi fa fare quello che è attaccato proprio al portafogli, mi fa un esempio concreto, perché agevolazione IMU non so neanche quanto possa pagare un negoziante per un negozio di medie dimensioni, e quale può essere l'agevolazione che voi date? Le agevolazioni in questo caso noi diamo un'agevolazione del 30% dell'IMU che il proprietario, che è dovuta. Che è dovuta, e quindi su questa parte diamo un'agevolazione. Oltre a queste agevolazioni, poi comunque ci impegniamo in una promozione di questi esercizi, in una promozione dell'artigianato locale che, devo dire, ultimamente, soprattutto in un quartiere tipico come quello dell'Oltrarno, che è all'interno dell'area UNESCO, sta riaffiorando con una serie di botteghe che rinascono grazie, appunto, proprio all'inventiva, alla creatività di giovani. Ecco che anche per questo ci siamo concentrati a prevedere delle agevolazioni anche per start-up giovanili, specie in zone della città. Questo l'abbiamo anche incrociato ad un'altra considerazione, quella di andare a vedere quali zone sono più degradate, dove ci sono più bandoni sfitti. Ecco, anche in questo caso, se il proprietario riapre il bandone con un'attività, sì, appunto di qualità, anche in questo caso abbiamo previsto un'agevolazione sull'IMU. Ecco, come comune noi possiamo agire, abbiamo questa leva. C'è anche la tassa, quindi, sui rifiuti, potete fare qualcosa anche su quella eventualmente, credo, no? Potrebbe essere un'altra agevolazione proprio perché cioè, per venire incontro a questo, perché cioè, in realtà molti di questi negozi chiudono per altri motivi, no? Perché c'è la concorrenza del commercio online, perché non si vendono più giornali, ahimè, in questo periodo. Quindi se l'agevolazione non è di peso, mi viene da dire, probabilmente rischia di cadere nel vuoto. Senta, ma certo, oltre a quello comunque appunto c'è tutta un'opera di promozione nella quale ci impegneremo anche insieme alle associazioni di categoria. Sì, quindi si stava peggio quando si stava meglio quando si stava peggio, cioè prima delle liberalizzazioni, quando il comune in qualche modo poteva con le concessioni, con le licenze, decidere, no? dove poteva aprire un negozio piuttosto che un altro. Non diciamo la Bezzani, perché sembravano le poche cose buone fatte negli ultimi anni invece. No, la situazione però magari in queste aree che sono più attrattive per i turisti e per il turismo forse è un po' sfuggita di mano. D'altronde sappiamo che la tradizione enogastronomica è uno dei punti forti del nostro paese, in particolar modo anche qui della regione toscana e della città di Firenze. Quindi si è pensato che quella fosse che quel settore rispondesse maggiormente alla domanda del turismo e si è andati a investire soprattutto su quelle attività all'interno della nostra area, però così facendo si rischia un'omologazione delle funzioni ed ecco che allora, certo, visto che l'ultimo decreto legislativo, il 222 del 2016, è arrivato per dare ai comuni la possibilità di vietare l'apertura di determinate attività in determinate zone, vista la situazione attuale a Firenze, abbiamo pensato di avvalersi, certo, di questa normativa per mettere un blocco per 3 anni. Certo, ma in realtà noi avevamo dato la notizia di quando voi avevate deciso, sempre per la questione del regolamento UNESCO, di dare la possibilità di aprire solamente a, adesso forse dico in modo non corretto, ma che avessero il 70%, mi sembra, di prodotti locali, di chilometro zero. L'anno scorso avevamo provato con questo regolamento UNESCO, nel gennaio del 2016, a chiedere dei vincoli maggiori per l'apertura di nuove attività di somministrazione di commercio alimentare. E che cosa è successo? Come mai avete? Nel senso che lì sembrava che voi aveste bisogno di nuovi ristoranti, di nuovi posti locali. No, la norma era stata messa proprio, vietato aprire nuove attività di somministrazione a meno che non vendano il 70% dei prodotti locali. Cioè avevamo fatto una anche quella era protezione. Certo, anche quella era per limitarli, solo che forse discriminava chi non era al 70% toscano. No, avevamo messo dei vincoli maggiori per l'apertura, certo, quindi avevamo chiesto la vendita di prodotti toscani o della filiera corta, oppure se tu non vendevi i prodotti toscani o della filiera corta, dovevi sottostare al giudizio di una commissione che valutava il tuo progetto sotto più punti di vista. Certo. Quindi avevamo messo dei vincoli in più per l'apertura che puntavano anche a una qualità, perché poi c'è un discorso importantissimo anche legato alla qualità di queste nuove aperture di mini market o di comunque attività di somministrazione, e quindi avevamo chiesto dei requisiti maggiori per arrivare, certo, ad aprire all'interno della UNESCO. No, è molto chiaro. Quest'anno però abbiamo visto che hanno continuato ad aumentare. Ecco, questo. Ma cambierà faccia Firenze con questi 3 anni di blocco? Cioè lo vedremo proprio fisicamente che cambierà faccia? Mi auguro che quel commercio dell'artigianato locale, quindi quel commercio tradizionale, rimanga e rinasca, siamo rinasca. In chiusura, glielo devo dire perché abbiamo pochissimi secondi. E rinasca, quindi vediamo, intanto un freno andava posto, in questi 3 anni ce la metteremo tutta per comunque tutelare ancora l'autenticità di quest'area particolare della nostra città. Grazie all'assessore del Re di Firenze, cari ascoltatori, vi ha convinto questa ricetta? 800 24 00 24, siamo qua dopo il GR. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la conferma, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. leads the liberal democratic values of Europe, values that the United Kingdom shares. And that is why, while we are leaving the institutions of the European Union, we are not leaving Europe. E va bene, questi erano dei momenti della settimana con l'annuncio di Theresa May del famoso avvio del divorzio dall'Europa con l'attivazione dell'articolo 50. Ben ritrovati cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Sottolineava sì. La May, usciamo dalle istituzioni, non usciamo dall'Europa, così insomma si fa un po' di sulle parole. Si è presa qualche fischio, diceva come in realtà non è così. Beh, tra l'altro in questi giorni è stato ripubblicato un audio che il Sun aveva recuperato prima del referendum di giugno sulla Brexit, nel quale Theresa May, parlando con un gruppo di imprenditori, diceva che era a favore del rimanere in Europa. Non è una novità, risentiamolo un attimo. Vabbè, in realtà non è udibile, non è praticamente udibile. Infatti la May si dice che veniva chiamata durante la campagna per referendum della Brexit Submarine May. Sommergibile. Esatto, perché non veniva mai a galla e non aveva mai fatto dichiarazioni così a favore della Brexit. Diciamo che ha aspettato Il momento che ha vinto la Brexit e ha detto, ma anch'io sono per la Brexit. Diceva, penso che le argomentazioni di tipo economico siano chiare, penso che essere parte di un blocco commerciale da 500 milioni di persone sia una cosa significativa per noi. E continuava adesso l'Inghilterra e anche per la sicurezza si diceva. Trova a gestire la Brexit con una premier che in realtà era a favore del leave, cioè del stay, del rimanere. The remain. Allora però vi tiriamo via da tutto questo, vi facciamo sentire una storia incredibile della settimana, perché noi abbiamo un eroe della settimana, eh. La storia è questa qua, la storia di un imprenditore di Vignolo, in provincia di Cuneo, che ha subito un furto in casa, sì, nella sua villa, lui e i suoi familiari, e insomma, invece di fare denunce... La denuncia l'ha fatta. Ah, giusto, l'ha fatta, sì, certo. Però poi ha detto, sono pronto a perdonare quelli che hanno fatto il furto, purché mi restituiscano l'orologio, che è un regalo di mia moglie, e a questo proposito, se faranno questo gesto distensivo, c'è una ricompensa importante. Li assumo nella mia azienda per un anno. Ho detto la denuncia l'ha fatto, però in realtà hai ragione tu, nel senso che ha detto nel caso lui non si costituisce parte civile. E è una notizia incredibile, anche perché lui dice: ci ho pensato un sacco. Sì. Dopo, ovviamente, ci ero rimasto malissimo. Però se si pentono, se mi ridanno indietro quello che hanno preso, se scontano, ovviamente. Però lui dice anche: siccome il sistema italiano va a finire che probabilmente vi farete 2 mesi di carcere, appena uscite dal carcere, io vi do lavoro, per un anno vi assumo. Un grandissimo, questo signore si chiama Antonio Bertolotto, esiste, tra l'altro mi sa che l'abbiamo già intervistato, perché è un imprenditore attivo nel settore del biogas, quindi è uno che una ne fa e 100 ne pensa. 800 24 00 24, questa mattina però siamo partiti da Firenze, che vuol limitare per 3 anni l'apertura di nuovi negozi di alimentari, perché ce ne sono troppi. Allora, qua ci sono dei messaggi, allora, ce n'è uno che dice: agevolazioni inconsistenti per gli altri negozi, intervistare il comune di Firenze è la cartina di tornasole del bla bla renziano, scrive Giuseppe, e questo è uno. Invece un altro che è senti questa, la cosa anomala è con tutta questa gastronomia, pellettieri e restauratori, non c'è un valido arrotino certificato. Attenzione, è arrivato la routine. No, ma sto ridendo per consenso, nel senso che dico effettivamente, Sandro, se abiti lì hai bisogno di un coltello, qualcuno. A Firenze è un artigiano e scrive che ha bisogno di un arrotino per la manutenzione degli strumenti da taglio, non se ne trova più uno. Quando dicevamo ferramenta, vedi? Arriva un messaggio anche su Verona che dice: Verona sta diventando come Venezia, in centro solo bar, banchetti di turisti che riescomparsi i negozi di alimentari e simili, non è più una città da vivere per chi ci abita. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, stiamo anche cercando un personaggio della settimana. Il primo indizio che vi abbiamo dato è che è ritornato, quindi vediamo. Elisabetta da Firenze, intanto, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire? Allora, su quello che l'assessora ha detto relativamente alla situazione di Firenze, che mi auguro che dia seguito appunto a questi propositi, perché la città, io abito nella zona di Santa Maria Novella, quindi molto centrale, mia madre abita in via dei Pecori, che è proprio al cuore, all'angolo con Piazza del Duomo, quindi la stazione la conosco abbastanza bene e mi sembra che sia una città, le disposizioni di Bersani sono state disastrose almeno per la città di Firenze, che da parte del comune non ha avuto, come dire, un controllo sullo sviluppo e sull'evoluzione appunto della città stessa. Sì. Ci sono effettivamente troppi bar, gelaterie, ristoranti? No, assolutamente, è un, come si dice qui da noi, un magna magna unico. Si pensa solo a mangiare. Sì, quando si dice magna magna di solito si intende dell'altro, si intendono i politici che portano via i soldi. In questo caso non è metaforico, è proprio perfetto. Quindi lei conferma, ma in effetti devo dire che arrivano anche degli altri messaggi. Paola che scrive: Verona sta diventando come Venezia, incento solo bar, banchetti di turisticherie, scomparsi gli altri negozi. Un altro ascoltatore dice: dovrebbero fare la stessa cosa che fanno a Firenze anche a Milano, ormai qui non si pensa altro che a mangiare. Ma ripeto che Milano mi sembra che abbia più negozi di moda che non ma dove ristoranti. Abiti? Nel quadrilatero? No. Lorenza da Como, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, prego. Per il personaggio della settimana. Chi è? Bob Dylan. Bob Dylan. Pronto? Perché Bob Dylan? Sì, abbiamo capito. Per quale motivo hai scelto Bob Dylan come personaggio? Perché è tornato nelle cronache in quanto è andato a ritirare il Nobel. Giusto. E finora non era andato a Stoccolma, volevamo che tu lo dicessi. Brava, sì, per avere la conferma, insomma, che c'è una notizia che riguarda Bob Dylan. Però non è il personaggio che avevamo scelto, però la ringraziamo di aver chiamato. Grazie. Mimmo da Roma. Mimmo? Eccoci, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Vai. Ma quale buongiorno? Qui piove. Lo so anche qua. All'orto qua. Bene, se piove nell'orto così vengono su meglio le verdure, no? Ma sì, io sono all'orto, per fortuna che s'annaffia. Cosa stai zappando? No, qui c'è pomodori, peperoncini, zucchini, le zucche. Di tutto, poi quando piove non si zappa, vero? Quando piove non si zappa perché No, siete grandi, io lo seguo sempre da quando è cominciato. Da quando siete nati, penso. Grazie, ma Mimmo. Siete grandi, io sono conducente di NCC, pure quando c'è cliente sulla macchina non fanno complimenti che le seguo. NCC, conducente NCC? Sì. Noleggio con conducente. Ai, Mimmo. Italo egiziano. Sì, sei nell'occhio del ciclone NCC. Non fa niente, siamo grandi, siamo noi tutti grandi. Ha ragione. Ma usi Uber? No. No, volevamo entrare nella questione Uber, tassisti. Ma fai quelle tariffe 100 euro per andare dalla stazione? No, io sono privato, agenzia privata, rispettiamo, c'è il voucher. Bravo. C'è tutto il segnato. Il voucher? Mi fermano, il voucher vuol dire quando segni al cliente, quando arriva, il nome e cognome, l'indirizzo. La località, sì. Dove devo portare più vicino, certo. Uscire da vecchio, tutto è regolare. E tutto la domenica regolare. Lavori nell'orto? Eh? E la domenica lavori nell'orto? No, cioè io le piante tutto, poi ci pensa mia moglie a raccogliere. Va bene, perfetto. Lui va lì a fare un giro. Allora Mimmo, perché hai chiamato Mimmo? Ha chiamato per Berlusconi. Perché quello non muore mai, rimbalza. Ma nel senso che è la tua proposta di personaggio della settimana? Sì. Ah, perfetto. Qual è la notizia legata a Berlusconi di questa settimana? Che lui torna alla politica. Sì, è un po' di settimane che anche noi lo diciamo, che in effetti che lui è lì che ritorna, attenzione perché ritorna, in effetti questa settimana però non è stato comunque lui il nostro personaggio di riferimento, quindi Mimmo grazie mille per aver chiamato. Mille. Buona coltivazione. E cerchiamo ancora un personaggio che ritorna, tra poco 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora abbiamo anche Giuseppe che ci chiama da Monza. Benvenuto Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mi è però sfuggita una cosa. Cosa c'è in palio? di vincere. Oggi un libro, Giuseppe, non abbiamo detto il titolo, ma abbiamo una biblioteca pazzesca, e quindi poi quando il centenario vi contatta vi spiega di cosa si tratta. Abbiamo perché giustamente lei dice classici e moderni. A seconda di qual è il premio do la risposta. Sì. Certamente. Certo. No, magari. Prego, da Dostoevsky a Baricco, per intenderci. Va bene. No, io sono molto più semplice. Sì. Secondo me è ritornato il morbillo. In effetti il morbillo è ritornato. Perché è ritornato il morbillo? Spiegaci un po' la notizia. Ma ho sentito che c'è un numero sopportato di casi di morbillo adesso in Italia che non ci aspettavamo, nessuno si aspettava, e è ritornato. Per il calo dei vaccinati, molto probabilmente associato a questo. Siamo contenti di aver dato la notizia di questa, per questo che ti chiedevamo la questione del morbillo, perché i casi di morbillo sono adesso a marzo sono lo stesso, hanno superato il numero di tutti i casi del 2016, quindi è un allarme reale, ci sono troppe persone che decidono di non vaccinarsi e mettono a rischio anche tutti gli altri. Però non era il personaggio che abbiamo scelto, anche se è quello che è andato più vicino, ecco, se possiamo dare un ulteriore suggerimento ai nostri ascoltatori. Però a questo punto 800 24 00 24, diamolo un altro indizio per aiutare i nostri ascoltatori nella ricerca. È un personaggio che divide, quindi ritorna e divide. 800 24 00, pensate 24. In grande, insomma, grandissimo. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato troppo poche ore, senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento, vento d'estate, io vado al mare, voi che fate, non mi aspettate, forse mi perdo, ho pensato al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone, pensato tutto in un momento, ho capito come cambia. Vento d'estate, eccolo qua. È un po' quella, a parte che oggi piove, però fino a due giorni fa sembrava quasi un vento d'estate. Allora eccoci qua, primavera troppo calda, primavera eccessiva. Quale sarà il futuro del nostro clima? Luca Mercalli, buongiorno, ben ritrovato. Buona domenica a tutti voi. Ciao, buona buongiorno. Domenica. Allora, insomma, se non fosse per queste pioggerelline di oggi, fino a due giorni fa stavamo parlando di questo. Dopo un inverno caldo, anche una primavera, un maggio in anticipo, è così? O sono le nostre sensazioni sempre così alterate un po', no? E ultra sensibili? È assolutamente così, perché i dati invece lo confermano. Il mese di marzo al nord Italia è stato il quarto più caldo su una serie di due secoli e mezzo di rilevamenti, quindi un mese che avanti anticipato è veramente pari a quello che potrebbe essere un mese di maggio. Ecco, aspetta un attimo che ce lo annotiamo. Dunque il mese di marzo di quest'anno è il quarto più caldo su una serie di 250 anni di dati di riferimento. Però, almeno per alcune città dove li abbiamo, per esempio a Torino è così, non ci sono dubbi. Ma in riferimento ad altri marzo o in riferimento a qualunque solo mese? Ad altri marzo, cioè perfetto. La serie dei mesi di marzo, certo, è certo. Più caldo. Però più o meno ormai ogni mese ci restituisce, se non un record, comunque un valore al di sopra della media. Infatti avete giustamente detto che abbiamo appena chiuso l'inverno, che al di là del breve episodio sulla Puglia, quel freddo che abbiamo avuto a metà gennaio, che poi ha portato la grande nevicata sull'Appennino, ma limitata a quel settore, cioè praticamente Puglia e Salento, è l'unica zona dove abbiamo avuto un'anomalia negativa, cioè un periodo molto più freddo della media storica su 50 anni, tutto il resto d'Italia ha avuto un inverno alla fine mite, con mezzo grado al di sopra della media. Ecco, anche per gli scettici, no? Ci sono le foto, per chi non c'è stato, del Po in secca di questi giorni, e poi le zanzare che sono già comparse in molte città. Solo queste due cose dovrebbero far rizzare i capelli, credo. Cioè, sono quelle due cose che, per le quali non bisogna essere un esperto meteo per capire che c'è qualcosa che non va. Sospetto. O anche dei dati, effettivamente, come ci stava giustamente ricordando, nel nord-ovest a dicembre è piovuto meno 81% in riferimento agli anni precedenti, che è una cosa pazzesca. Beh sì, poi pochi giorni prima avevamo avuto invece l'alluvione, quindi esatto. Abbiamo poi fenomeni estremi che sembrano compensarsi, ma in realtà creano grane nell'uno e nell'altro. Però sottolinei un punto secondo me fondamentale, perché è un po' che noi ignoranti, se vogliamo, non capiamo un po' più niente, perché da un lato leggiamo che piove troppo poco, però diciamo ma come, ci stiamo occupando di alluvioni, poi ci sono le alluvioni, qualcuno ci dice che invece fa troppo caldo, è difficile capire, o meglio è facile per i detrattori, per quelli che pensano che invece il clima va tutto bene, dire ma sì, ma in realtà è sempre andata così. Fortunatamente però abbiamo i dati che ce lo confermano, quindi è ovvio che in questa confusione mediatica di questi nostri tempi è difficilissimo estrarre l'informazione che conta, perché le chiacchiere fanno più strada dei dati reali. Ecco perché noi vogliamo Luca Mercalli ogni tanto, perché vogliamo i dati. I dati ci aiutano, li abbiamo, quindi basta Verissimo. Avere la pazienza di farli emergere. Voi lo state facendo, insomma, questi numeri sono dei numeri certificati. È che evidentemente Trump ha degli altri dati, però, perché quello che... Trump che non ne ha, Trump chiacchiera. Guarda, abbiamo appena terminato ieri sera il forum dei presentatori meteo delle TV di tutto il mondo qui a Torino. Ebbene, c'erano quindi anche tanti colleghi americani con i quali io ho dialogato in questi giorni e ho chiesto loro delle informazioni su Trump, e mi hanno detto lui le spara, lui ovviamente ha dietro i poteri del mercato del fossile, e quindi dice quello che vuole, perché è un presidente degli Stati Uniti, ma si guarda bene dal basarsi sui dati scientifici. Infatti il 22 di aprile a Washington ci sarà la grande marcia della scienza, che chiede che venga rispettata, se non la verità, che non esiste nel mondo. Sì, perché in effetti quando il nuovo presidente dell'Agenzia per l'Ambiente dice che non c'è accordo sull'impatto umano sul cambiamento climatico, si riferisce non agli scienziati, cioè tra la gente comune. Io ammetto che la gente comune possa non essere tutta d'accordo, però se si mettono in una stanza 100 scienziati, 99,9 sono d'accordo, quindi è un po' questo il gioco. Però questa settimana hai detto i poteri forti, i poteri dell'industria del carbone, del petrolio, un'industria che sicuramente ha contribuito anche alla crescita in questi anni, è inutile negarlo, tutti noi ancora ci alimentiamo con queste robe, però forse è il momento di dare un segnale, dare una svolta. Obama aveva firmato delle leggi in ossequio all'accordo di Parigi sul clima, adesso in settimana Trump, circondato da questi personaggi che lo guardavano come dire firma, mi raccomando firma, ha cancellato tutto. Una visione a cortissimo termine. È vero che il carbone costa meno dei pannelli solari, ma è compito proprio della politica cambiare l'economia affinché rispetti poi la qualità della vita di chi viene dopo, altrimenti va benissimo il mercato. Il mercato prende oggi, arraffa oggi, e del domani chi se ne frega. La politica dovrebbe proprio avere una vista un po' più lunga e dire sì, se però quel carbone lì mi pregiudica il clima, ma anche di noi stessi, non è necessario pensare solo alle generazioni future. Già noi fra 10 o 20 anni avremo quei numeri che ho detto prima, moltiplicati magari per qualcosa in più, con i problemi che si ingigantiscono. Però noi, metto oggi un limite, metto oggi un incentivo al solare e lo tolgo al carbone e mi porto verso questa transizione sostenibile che dobbiamo per forza fare. Mi allineo nella direzione giusta, nella direzione sostenibile. Mi allineo, non è che cambio tutto, faccio la rivoluzione, ma mi allineo e vado in quella direzione. Perché non si può fare la rivoluzione, perché sono tecnologie che comunque hanno bisogno di tempo, e il fattore tempo è cruciale. Non abbiamo tutto il tempo che vogliamo per farla. Il clima intanto cambia, quindi dobbiamo partire e porci davanti un obiettivo dell'ordine di una quindicina di anni per fare la transizione. Ma se non la cominciamo mai, o addirittura torniamo indietro, allora si rimane fermi. Però la buona notizia c'è, perché subito dopo che Trump ha confermato di voler disdettare questi impegni, la Cina, che ha un peso insomma nel mondo, ha detto ha un numero, ha detto no, noi confermiamo tutti gli impegni, perché tutti erano preoccupati, siccome in questi anni la Cina è sempre stata nel mirino, il paese che non voleva fare gli accordi, lasciateci sviluppare, lasciateci crescere, lasciateci andare avanti con l'industria. La Cina ha detto no, noi confermiamo tutti gli impegni, anzi investimenti sull'auto elettrica, annunci proprio di questi giorni. Sarà la Cina a guidare la transizione vera a questo punto, ci credi a questa cosa? Sì, ci credo abbastanza, perché la Cina prima di tutto ha gravissimi problemi ambientali interni, quindi comunque sta facendo i conti con una situazione, pensate allo smog di Pechino, che porta già a problemi gravi sanitari per i propri cittadini. Poi ha già iniziato una vasta campagna di trasformazione della propria industria, anche perché vende agli altri, cioè il pannello solare prodotto in Cina non sta solo in Cina, ma va in giro per il mondo con un mercato dell'energia rinnovabile in espansione, e quindi è molto probabile che la Cina vada a ricoprire questo spazio di leadership lasciato vuoto dagli Stati Uniti. Cioè quasi che prima una necessità di tornare a respirare nelle grandi città cinesi, ma anche una necessità economica, cioè è business, loro vedono questo business e ci si buttano. Sicuramente business, però teniamo presente che anche negli Stati Uniti non sono tutti come Trump, la California per esempio sì. È uno stato avanzatissimo dal punto di vista delle tecnologie ambientali, e quindi non so fino a che punto molti stati e anche molte industrie, pensiamo alla Tesla, si lasceranno mettere i piedi in testa da Trump. Si riuscirà in qualche modo a limitare questa azione di Trump, che sembra veramente unilaterale, nel senso che proprio che sembra che si svegli la mattina e dica cancellate tutte le cose di Obama, che nel 2015 aveva deciso di limitare le emissioni e così via. Si riuscirà a limitarlo o riuscirà a fare quello che vuole Trump? Proprio veramente dipende dall'atteggiamento interno degli stati come la California, di alcune città molto avanzate, che probabilmente diranno ma noi siamo già più avanti, perché torniamo indietro, quindi è una speranza. Sarà una partita interna anche agli Stati Uniti, sì. Posso farti mettere un po' di pepe? Abbiamo un audio di Fulco Pratesi, voglio vedere se batti beccate su questa cosa, perché o ci aiuti a spiegarla, perché sul fatto delle pale eoliche c'è una nuova polemica, di nuovo per la questione del paesaggio da parte del WWF, ma anche per gli uccellini, perché pare che ci sia anche un problema di impatto sugli uccellini, che sembra non sappiamo più da che parte andare, cioè da un lato le energie alternative e ci piacciono, siamo felici, dall'altra però anche i poveri uccellini. Sentiamo Pratesi. L'esigenza di energie alternative è indispensabile, però bisogna anche pensare quando questi strumenti, questi elementi altissimi, importanti, possono danneggiare una situazione diciamo molto delicata, vicino ai bellissimi borghi medievali, vicino a parchi nazionali e anche in luoghi dove ci sono dei passaggi di animali rari. Queste pale eoliche sono messe con circospezione, messe in punti dove non ci siano diciamo vincoli ambientali o paesistici, e si possono anche mettere, però naturalmente, come dico, con attenzione. Mercalli contro Pratesi è come Mazinga contro Goldrey. Condivisibile nel senso che con le energie rinnovabili vale molto il contesto dove si opera, quindi sono pienamente d'accordo, inutile mettere le pale eoliche sulle colline del Chianti quando abbiamo un'immensità di altre zone meno pregevoli dal punto di vista storico e paesaggistico, dove invece addirittura le pale eoliche portano ricchezza, perché con la produzione e le royalties che si pagano sul territorio, molte aree marginali invece ottengono dei vantaggi economici per far girare la loro piccola economia locale. Quindi le rotte migratorie, grosso modo, degli uccelli sono note, e si va a evitare di metterle nei punti più caldi, e più caldi intendo dire ornitologicamente. Sì, non come clima, non come clima. Cioè di spazio ce n'è. Vabbè, si può fare, insomma, si può trovare una composizione. Sì, e la si è già trovata, perché bene. In Italia comunque ci sono già moltissime pale eoliche e moltissimi pannelli solari. Si tratta di continuare su questa strada, e invece si è fatta marcia indietro per meri motivi economici. Bene, grazie. Grazie mille. Ancora Luca Mercalli, ciao, buona domenica. Buona domenica anche a voi. Grazie per essere stato con noi. Avanti con la Cina verde, avanti con la Cina verde. 80024. Chi l'avrebbe mai detto? 0024, nessuno. Cioè, 4 che la Cina nessuno. Ci salvi dall'inquinamento, perché gli Stati Uniti si sfilano. Allora, abbiamo qualche ascoltatore, li sentiamo però dopo la pausa. L'80024 0024, cerchiamo un personaggio della settimana che ritorna, ma anche divide. Si può fare, cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. E allora, andiamo con Giorgio che ci chiama dalla provincia di Macerata. Benvenuto, Giorgio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Cosa volevi intervenire? Sì, sul personaggio della settimana, che secondo me è Gonzalo Higuaín, perché ci sono tutti i requisiti. È tornato, è sì. Un personaggio che divide, e poi, se permettete, c'è anche un accostamento con il Morbillo, perché lui è chiamato Core Ingrato, quindi è sempre un riferimento anatomico, insomma, quindi come il Morbillo. Ma pensa te che indizio, che collegamento sorprendente che hai trovato. Beh, dovremmo premiarti solamente per il collegamento alla Mentana, Rico Mentana. Giorgio, però non era Higuaín che tornerà appunto a Napoli con la Juventus, e quindi sicuramente dividerà il pubblico. Non cercavamo Higuaín come personaggio della settimana. Ottavia da Milano, vediamo se ci avviciniamo. Prego. Ciao, buongiorno Alessio, buongiorno. Carlo, buongiorno, buona domenica. Ciao. Grazie anche a te. E io pensavo, con la mamma, che stiamo facendo un viaggio al vinile, perché ho sentito una notizia che ha ripreso, è ritornato in vigore molto più dei CD e degli altri mezzi, quindi mi è venuto in mente questo. Ritorno del vinile. È vero che è ritornato il vinile. È una notizia strana, perché in realtà il vinile, con la questione dei collezionisti, è interessante. Piede. Invece il CD molto meno, perché in realtà il CD è molto più simile agli MP3, quindi va benissimo se uno si scarica gli MP3, non è un problema. Ma invece il suono del vinile c'è chi non lo vuole assolutamente perdere e dimenticare. Però non era il personaggio. Però direi che sei tu a questo punto quella che si è avvicinata di più, insomma. Perché, insomma, non sempre il nostro personaggio è un personaggio necessariamente un essere umano. Un essere umano può essere anche qualche cos'altro che ritorna e che divide. I'm gonna need you to raise your glass. I don't care what you put in it. Here's the nights that you can't take back. We live hard, but we love to laugh. See, we won't forget where we came from. The city won't change us. We beat to the same drum. Allora, Back Home, Andy Grammer. Vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare, sul sito di Radio 24 c'è la playlist di ogni puntata. Allora, di nuovo a casa, indietro a casa. È veramente un bel Si Può Fare questo qua, di una azienda italiana che prima se ne va in Cina. Tanto tempo fa, se non ho capito male, una decina d'anni fa. A delocalizzare, poi a un certo punto fa i suoi conti, decide, bla bla bla, alla fine torna in Italia con questo pezzo di produzione. Il figlio il prodigo, il ritorno in patria, il contrario della delocalizzazione, la rilocalizzazione, vedetela un po' come volete. La storia ce la facciamo raccontare dall'amministratore delegato della Vimec, Giuseppe Lupo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, un'azienda, la Vimec, che produce, tra l'altro, o esclusivamente poltroncine montascale. Noi produciamo poltroncine montascale, pedane inclinate, piattaforme elevatrici, sì. E in più il montascale mobile, che è quel prodotto che avevamo delocalizzato in Cina. Ecco. Noi siamo una società che produce attrezzature, macchine per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la mobilità degli anziani. Ecco, e questa è la finalità dell'azienda. Abbiamo una linea completa. Sì. Mi faccia fare però alcune domande. Lupo, scusi, così spieghiamo agli ascoltatori da tanti elementi che credo possano essere interessanti per loro. Voi siete a Luzzara, intanto. Sì, Luzzara. Nel territorio di Reggio Emilia. Provincia di Reggio Emilia. State lì con 100 e rotti dipendenti. Sto al 2006. A un certo punto decidete di andare a fare una parte della produzione, circa il 25%, se ricordo bene, all'estero. È così? Il 25% dell'unità, sì. Ci siamo trasferiti in Cina, dove avevamo trovato dei costi molto più favorevoli. Ecco. Cioè una riduzione di costo rilevante, tale da permettergli di essere più competitivi sul mercato. E poi a un certo punto fate i vostri conti, fate le vostre valutazioni e decidete invece di fare marcia indietro. Perché decidete di fare questa marcia indietro? Abbiamo deciso di fermarci indietro per più di un motivo. Il primo è che i costi non erano più così interessanti per effetto sia di aumenti dei costi di produzione sia per effetto del cambio con il dollaro. In più, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, avevamo dimenticato di svolgere delle attività di miglioramento del prodotto, riduzione di costi, e dunque abbiamo pensato, non avendo più questo interesse o essendo diminuito l'interesse, di chiudere quello che avevamo in Cina e portare questo prodotto in Italia. Siamo partiti dal mese di gennaio. Questo è molto interessante perché di solito non ne parla mai nessuno. La questione della qualità e dei miglioramenti, lei giustamente ha sintetizzato dicendo lontano dagli occhi, lontano dal cuore, perché effettivamente così, nel momento che uno delocalizza, viene prodotto tutto da un'altra parte, forse si dimentica anche quello che stava facendo, ovvero cercare di produrre il prodotto migliore, col design migliore, funzionale, e quindi mi sembra una cosa molto precisa questa. C'erano problemi di lingua con gli ingegneri? No, scherzo, a parte gli scherzi. No, problemi non c'erano, né problemi di lingua né problemi di qualità. Cioè qualità era accettabile, anzi qualità ottima, però come ho detto è un prodotto italiano, poi noi fra l'altro in questo momento vogliamo spingere il Made in Italy in quanto tutti i nostri prodotti sono Made in Italy. Quindi lei vuole fregiarsi del Made in Italy e vuole farlo al 100% in Italia. Il ritorno, dobbiamo dirlo, in Italia di questa linea di produzione ha significato un incremento, un rincremento, diciamo, di occupazione. Non parliamo di numeri vertiginosi, non aspettatevi, non siamo alla Fiat, siamo un'azienda che ha 170 dipendenti, quindi più 11 dipendenti, se ho capito bene. Abbiamo assunto già 11 dipendenti l'anno scorso, e probabilmente se le cose continueranno ad andare bene come stanno andando fino a questo momento, continueremo la nostra politica di aumento di produttività e aumento di produzione. Ecco, quindi insomma, ogni azienda che ha davanti a sé il segno più merita il nostro applauso, la nostra attenzione, e in questo caso anche non direi il ringraziamento per essere tornato in Italia, perché lei ne fa un discorso, qui è cosa interessante, anche economico insomma, di qualità ma anche economico, cioè a questo punto è più interessante per voi stare in Italia. Pensa che questo tipo di decisione possa riguarderà anche altri, o è solo un caso isolato il suo, isolatissimo? Io spero che non resti un caso isolato. Se gli altri si fanno i conti e traggono le conclusioni che i benefici economici sono ridotti notevolmente, possono prendere le stesse decisione che abbiamo preso noi. Glielo consigli lei, trovi il modo per consigliarglielo. Facciamo un appello perché l'appello lo ha già fatto raccontandoci questa storia che è abbastanza incredibile al momento, devo dire, cioè quasi si stenta a crederci, no? Per la verità in questo momento abbiamo ricominciato la produzione, qua i costi sono ancora leggermente più alti, sì. Però abbiamo un programma di miglioramento del prodotto, riduzione dei costi con un miglioramento di produttività, e per il mese di giugno dovremmo avere qualche bella sorpresa. Quindi è un investimento, si può dire che è un investimento, c'è un tornaconto economico però di là da venire. È un ragionamento che lei fa nel medio periodo, si dice così in termini economici. Oddio, io le devo dire che l'anno scorso abbiamo investito più di 1 milione di euro, sì, di macchinari, attrezzature per migliorare e introdurre nuovi prodotti. Continuiamo questa politica di investimenti anche quest'anno e speriamo che il mercato ci darà ragione. Va bene, in bocca al lupo alla Vimec, che tra l'altro lei si chiama Lupo, quindi diciamo che Giuseppe Lupo casca a fagiolo. Grazie per essere stato grazie con noi, mille. Complimenti, okay, complimenti. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica. Allora, questo era un caso di un'azienda, 170 dipendenti in provincia di Reggio Emilia, a Luzzara, una piccola azienda, però un incremento di produzione di 10-11 unità, insomma, persone che lavorano in più per via di questo ritorno. È un'ottima notizia. Dalla Cina è un'ottima notizia. E, insomma, gli stipendi in Cina cominciano a crescere, non siamo più all'operaio cinese pagato 50 lire, evidentemente non gliel'abbiamo chiesto, ma è questo che sta cambiando. Ma poi c'è anche un discorso di qualità, e questo è bello sentirlo fare da un imprenditore italiano. 800 24 00 24, siamo qua cari ascoltatori anche per farvi indovinare un personaggio della settimana che è tornato e divide. A tra poco. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it. vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, Alessandra ci scrive al 349-238-6666. Nel mio giardino stanno fiorendo le rose e siamo in collina nel Piacentino. Non dovrebbero fiorire rose adesso, è un po' presto. Segno che fa troppo caldo. Fa troppo caldo. Che clima, non si capisce più niente. Bravo. Allora, andiamo con gli ascoltatori. Abbiamo Massimo che chiama da Catania. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, finalmente ottimismo e buone notizie. Bravo, cioè bravo, insomma, bravo perché ci fai complimenti, ne abbiamo bisogno, grazie. Chiamavo per il personaggio della settimana, avevo pensato al Dazio. Il ritorno del Dazio, la notizia del presidente Trump, che divide naturalmente. Divide è assolutamente giusto. Eh sì, perché è comunque una tassa che dopo tanti anni vorrebbe reintrodurre, soprattutto per aziende come la Piaggio. Eccoli gli applausi. Te l'abbiamo un po' l'abbiamo un po' fatta cadere dall'alto. Esatto, fatta sudare, ma volevamo che raccontassi la notizia come sempre, sia quando indovinate sia quando non indovinate. I dazi che sono tornati, che sicuramente dividono come i muri, è un po' come tutto quello che sta facendo Trump in questo momento. Hai vinto. Dividono anche l'opinione pubblica, perché leggo sui social network qualcuno che è favorevole ai dazi perché si può proteggere così l'industria italiana, però ricordiamoci tante volte che parliamo anche noi di dazi, effettivamente. Ognuno protegge la sua e poi vince il più forte, non certo il più debole. Bisogna fare i conti e vedere se uno è più forte o più debole. Massimo, bravo. Complimenti. Hai indovinato, quindi ti porti a casa il premio di oggi. Anche tu un libro, sarai contattato dal nostro centralino che ti fornirà i particolari di questa vincita. Adesso è il momento di andare nella Ville Lumière, nella capitale francese. A Paris. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Quando sentiamo queste note sappiamo già chi c'è dall'altra parte. Sì. Ad aspettarci dall'altra parte della linea. C'è dall'altra parte? Sì, Leonardo? Ci sono, buongiorno. Leonardo Martinelli. E allora, buongiorno. Caro Leonardo, questa settimana con te vogliamo, è un po' che non ci sentiamo, però Parigi ci fornisce sempre spunti. Ce ne sono due. Uno è un si può fare che un po' ci inquieta, ci preoccupa anche, perché parliamo di allarme a terrorismo e del fatto che si sta studiando di costruire delle nuove protezioni, delle paratie intorno alla Tour Eiffel. Sì, una sorta di parete di vetro alta 3 metri, un antiproiettili praticamente. Questo ovviamente per tutti i problemi del terrorismo. Devo dire che ci sono molte polemiche qui riguardo a questa decisione. Lo sospettavamo perché non è una cosa da poco, cioè dà una sensazione. È stata presa, quindi perché il 27 marzo praticamente il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato questa misura. Ecco, eravamo rimasti a una fase di studio avanzata, invece si realizzerà, probabilmente si realizzeranno queste paratie che però hanno un aspetto, quella polemica credo raccontacela, legata al fatto di questa ansia, di questa sensazione anche forse di resa al terrorismo, si comincia a chiudere tutto, a impacchettare tutto, a mettere protezioni ovunque, anche se la Tour Eiffel non è un oggetto qualunque, insomma è il monumento forse più visitato di Francia? È uno dei più visitati, in realtà è insieme anche a Euro Disneyland, tra l'altro, uno dei siti più visitati, anche se effettivamente, e un po' è la ragione anche di questa parete, dopo gli attentati già dal 2015 c'è stato un calo delle visite. A dire il vero però c'è stato poi un aumento a partire dall'inizio dell'anno, anche perché qui c'è un ritorno dei turisti, cioè i turisti non è che se ne siano andati perché Parigi è rimasta una grande destinazione turistica, però gli attentati hanno avuto dei riflessi negativi, ma si è notato già da dicembre un'inversione di tendenze, quindi chi critica questa misura lo fa appellandosi proprio a questi dati. Cioè, ma come la gente sta tornando a Parigi perché si sente tranquilla e voi date un messaggio invece... Un messaggio un po' negativo, poi tra l'altro ci sono anche proprio critiche... come dire, anche riguardo al fatto che questo muro di vetro, come poi tanti altri a Parigi, potrebbe essere riempito di tag, graffiti, cioè, perché loro la vendono come una cosa trasparente, molto leggera, ma in realtà non ci sarà poi un controllo all'esterno e quindi uno poi su quel vetro ci potrà fare quello che vuole. Quindi le critiche ci sono, però normalmente sarà pronto già il secondo trimestre dell'anno prossimo, perché come sapete i francesi quando decidono fanno in fretta poi dopo. Cioè non è quando che ci si mettono non scherzo. Senti, ma andranno veloci anche sulla sperimentazione di questa e dell'altra notizia, di questo strano veicolo che quasi vola lungo la Senna? Sì, un taxi volante. Anche lì sembrava un po' una barzelletta, ma in realtà... Sembrava un film di 007. Sì, è vero. E invece la cosa sta andando avanti, cioè sono praticamente dei veicoli che hanno un appoggio, che vanno sull'acqua, che hanno degli appoggi laterali, ma che per il resto non toccano l'acqua, sono delle veicoli elettrici. Sono quasi dei catamarani sagomati, insomma, no? Infatti, carenati. Tutti design bellissimi. Fatti da una start-up che è stata creata da un velista francese e da un surfista svedese, sono dei giovani che hanno fatto questo e il comune di Parigi comunque ci è sta molto investendo. Interessato e lo sperimenteranno quest'estate, cioè bene. Per due settimane chi vuole potrà salire su queste imbarcazioni che ovviamente mi raccomando candidati ad uno dei primi così poi ce lo racconti. grazie Leonardo mille. Martinelli, chiudiamo qua, un grande abbraccio da Parigi, due notizie per chiudere la puntata di oggi, ci risentiremo sabato prossimo. A questo punto io voglio ringraziare come sempre con enfasi Andrea Piana, autore di questo programma insieme a noi, ma anche Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Andrea Roccabella in regia. Noi ci risentiamo appunto sabato prossimo, vero Carlo? Sì signori, ci risentiamo. Io mercoledì sarò a Ravenna a presentare il libro. Ho compiuto due anni, il mio libro ha compiuto due anni, come ho scritto su Facebook, ma sono ancora a presentarlo. E quindi sarò a Ravenna mercoledì 5 in via Diaz. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini.